Ora il popolo dei Rom, guardato da un altro punto di vista, l'occhio per esempio di molti etnografi, di molti antropologi, di molti Rom ovviamente, e di molte altre persone, diciamo civili in tutto il mondo, il popolo dei Rom invece è un popolo di straordinario interesse. È un popolo che è pacifico. L'unico popolo che non ha mai costruito un esercito, che non ha mai voluto fare una guerra, mentre noi di guerra ne abbiamo fatte tante. Abbiamo dei generali, c'è la Marmora, ricordatevi un pochettino, che hanno fatto massacri strepitosi, Nino Bixio, cioè diciamo così. Chiedete ai somali che cosa significa fare delle guerre. E l'Italia, diciamo così, è una bella esperienza di questo genere. I Rom no, non hanno nessuna di queste esperienze. I Rom hanno una cultura, diciamo, musicale tra le più raffinate del mondo. La musica Rom è una musica che ha dato, diciamo, vita a talenti straordinari, cioè che spesso vengono nascosti e vengono chiamati con nomi, diciamo così, più condiscendenti. Pensate a Liszt, per esempio. Grande musicista che viene sempre indicato persino nelle enciclopedie come un musicista ungherese, ma non era ungherese, era un Rom. E così come lui, tantissimi altri violinisti, suonatori, di compositori. Il popolo Rom è un popolo che ha costruito una cultura del corpo e della danza tra le più sofisticate che l'umanità abbia mai conosciuto. Pensate alla danza del ventre, di cui costantemente, no, si parla in vari modi, diciamo così, più o meno boccaccesi o più o meno raffinati. Ecco, allora questo tipo di popolo che ha questa grande cultura ha anche un'altra grande caratteristica, un popolo di cultura orale, e vale a dire è uno dei, l'unico popolo che rimane sulla faccia della terra per quel che riguarda l'Occidente, sicuramente l'unico, no, che non ha mai voluto per esempio diventare un popolo alfabetizzato, un popolo che quindi si è attenuto a una cultura orale, una cultura straordinaria che utilizza la fiaba per socializzare i bambini, che utilizza la narrazione fiabesca per trasmettere la sua cultura, che quindi viaggia secondo delle coordinate culturali diverse dalle nostre, molto alfabetizzate, compromesse sin dai tempi dei Sumeri e poi dei Greci, diciamo così, dalla cultura alfabetica, dal pensiero razionale, e che quindi, come dire, si muove in una rotta, no, diversa, una rotta che andrebbe quindi salvaguardata, protetta, studiata, no, vista per ciò che di straordinario e importante dà e consegna alla nostra specie. Ma no, invece il pensiero di Lombroso riassume questo popolo nello stereotipo del ladro, il ladro che ruba i bambini, no? Il popolo, cioè, che porta via il portafoglio sulla metropolitana. Guardatevi bene quando c'è un Rom vicino, perché potreste non avere più in tasca i vostri portafogli. Sapete benissimo che le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia hanno mostrato senza ombra di dubbio che la percentuale di ladri, no, in relazione alla popolazione Rom è assolutamente la più bassa che c'è in assoluto rispetto a tutte le altre componenti etniche che ci sono nel nostro paese. La più alta peraltro è quella degli italiani. Quindi, cioè, diciamo così, ecco che il problema dei Rom noi lo possiamo già guardare in un modo, e faccio una domanda: perché succede questo? Perché? È vero che oggi il dispositivo di Lombroso è valido? No, oggi non è più valido, oggi non abbiamo più salvo un premio Nobel che è ancora un po' rincitrullito, cioè diciamo così, che è ancora fissato nell'idea che forse ci sono delle, diciamo, tare genetiche in alcuni popoli, ma a parte, diciamo, questa figura un po' curiosa, no? Oggi in genere, diciamo, la media intellettuale europea, americana, nordamericana è disposta a riconoscere che la dimensione genetica era più consona a Mengele, casomai, no? A Eichmann, cioè al Terzo Reich, che non alla sensibilità culturale della nostra epoca. E quindi si è passati da un razzismo di tipo genetico a un razzismo più sofisticato che chiameremo un razzismo culturale. Un razzismo culturale è un razzismo che si fonda su un nuovo dispositivo, un dispositivo importante però, che dice: il gruppo sociale più forte, no, ha un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri gruppi sociali. Dunque, un gruppo sociale più forte, no, perché è più forte? Perché ha qualcosa in più che non hanno i gruppi sociali più deboli. Non ha solo la forza, il numero, la qualità, ma anche per esempio un livello di sviluppo più alto, un livello di istruzione più alto, ha un di più. E questo di più fa sì, cioè, che possa e debba esercitare per la sua sicurezza, e cominciamo a introdurre la parola sicurezza, no, un giusto controllo rispetto ai gruppi sociali più deboli. La sicurezza, la parola sicurezza va scomposta in tre significati diversi però. C'è una sicurezza, diciamo così, del portafoglio. Giro per la metropolitana, voglio star sicuro, mi cucio le tasche, no? Metto il borsello col lucchetto, metto casomai, oggi hanno inventato degli strumenti che suonano se uno tocca la borsa, insomma, metto strumenti tecnici, tecnologici, no? A protezione dei miei averi. Ho paura che qualcuno mi rubi qualcosa. Potrebbe rubarmi anche la vita, potrebbe rubare la vita delle persone a me care. Quindi c'è una sicurezza di questo tipo, un bel fantasma di questo tipo. Poi c'è una sicurezza di ordine economico. Allora la sicurezza di ordine economico funziona in un altro modo e dice: se questi gruppi sociali più deboli, che sono arrivati per ultimi o che comunque sono ai margini della società, no, si mettono in testa di volere anche loro insidiare i nostri posti di lavoro, siamo nei guai, perché non c'è lavoro per tutti, perché questi qui vengono già a portar via una parte di quello che è nostro, e quindi è bene tenerli lontani perché in qualche modo insidiano il lavoro, diciamo la sicurezza del lavoro. Poi c'è un terzo significato di sicurezza, che è quello che sentiamo spesso formulare dal Papa, no? Cioè dalle grandi figure che credono di avere, come dire, in deposito, no? Simbolicamente perlomeno, dei grandi valori culturali. Allora ciò che viene minacciato è la nostra sicurezza culturale, il nostro modo di concepire il rapporto con le donne, quelli hanno il burka, noi invece no, il nostro modo di concepire, diciamo così, le radici culturali dell'Europa, tutta una serie di grandissime stupidaggini, perché se solo voi pensate, vi faccio solo un esempio, di qual è l'immagine che gli uomini dell'Occidente hanno delle donne dell'Occidente, e guardate qualunque pubblicità pornografica che trovate su qualunque quotidiano, cioè vi vergognerete solo dal formulare quest'idea che in Occidente gli uomini abbiano un'idea delle donne più rispettosa di quella di altre parti del mondo. Qui si vendono le donne scosciate semplicemente per vendere un dentifricio, un profumo, un gelato. Quindi figuriamoci un po' quali sono i valori della società occidentale. Sono valori che fanno molto ridere rispetto, però questo problema della sicurezza, no, eccolo qua, cioè ci è presentato in questi tre modi. Questi tre significati di sicurezza, tuttavia, vanno analizzati un po' più a fondo per capire bene fino a che punto siano falsi, e io cercherò di farlo individuando il punto, diciamo, più significativo della sicurezza, quello economico. Noi siamo toccati su, non vi vengo a fare delle statistiche su quello della sicurezza delle carceri, diciamo, dei furti, eccetera, perché quello lo fa già il Ministero di Grazia e Giustizia, dando ampie statistiche a chiunque le voglia leggere, diciamo, la Caritas romana pubblica tutti gli anni dei dossier ampiamente, diciamo, documentati e fuori, diciamo, di sospetto, che mostrano quanto sia stupido pensare, cioè in questo paese, in Italia e anche negli altri paesi europei, che ci sia una minaccia della sicurezza del portafoglio fondata sul furto che i rom o i marocchini possono fare. Cioè questo è dimostrato per altra via e non c'è bisogno di parlarne, almeno da parte mia. Io invece vi voglio parlare di un terreno di cui mi sono interessato negli ultimi due anni, che è quello dei migranti. E voglio porre il problema dei migranti proprio per, diciamo, come seconda figura, come secondo analizzatore del problema che ci interessa, perché è una straordinaria, diciamo così, occasione di fare il punto, un po' di chiarezza, sull'operazione che in Occidente si sta compiendo contro di loro. Allora, questa occasione ci viene data da un sistema di leggi, che negli anni 90 sono state approvate in tutta Europa e che si chiama il pacchetto Schengen. Molti avranno sentito nominare questa storia Schengen. Schengen è una riunione di stati europei, no? Di ministri, di capi di Stato e poi di ministri interessati, che ha deciso di formulare, come dire, un confine dell'Europa, un confine esterno dell'Europa. Ha detto, vabbè, chi è nato dentro questi paesi può circolare liberamente, chi viene da fuori lo stabiliamo per decreto, che chi viene da fuori è illegale clandestino. Punto. Stabiliamo proprio che qui non può venirci. Stabiliamo che non può venirci perché? Perché non è desiderato. E ha introdotto questa parola che ha ripescato, peraltro, da un, diciamo, vocabolario, da un dizionario molto noto negli anni 40 e 50, perché il fascismo lo aveva utilizzato a pieno per fare le leggi razziali. Le leggi razziali in Italia furono, diciamo così, costruite intorno alla parola desiderabile e desiderato, non intorno alla parola ebreo o ungherese. Vennero, andatevele a leggere, queste leggi si trovano persino su internet, sono state pubblicate da una casa editrice che si chiama Non Luoghi in vari libri, il testo originale delle leggi, e questo testo originale dice semplicemente che ci sono dei sudditi indesiderati. Allora si usava la parola sudditi al posto di quella di cittadini. Noi non li vogliamo, per il semplice fatto che non li vogliamo, no, sono illegali e quindi vanno rinchiusi, allora in campi di concentramento. Schengen dice, gli indesiderabili, coloro che vengono fuori dai confini, noi dobbiamo rinchiuderli in un tipo particolarissimo di campi di concentramento, non a tempo indefinito, ma, come dire, a tempo parziale, a breve tempo. E perché? Perché a noi non interessa reclutare questi, diciamo, indesiderabili realmente, rinchiudere questi indesiderabili realmente, a noi interessa semplicemente rimetterli in circolo all'interno di questo paese, però con un marchio sulla schiena che dice tu per 10 anni non potrai avere nessun diritto dentro questo paese. Ecco che allora nasce il centro di permanenza temporanea, un filtro, dove io prima ti dichiaro indesiderabile, quindi ti catturo, faccio una schedatura biometrica, non un altro tipo di schedatura, non interessa il tuo nome e cognome, che tanto so benissimo che può essere vero o falso, mi interessano i tuoi polpastrelli, mi interessa il tuo DNA. Preso questo, ti rimetto tranquillamente fuori. E ti rimetto tranquillamente fuori dicendoti, per, come dire, per essere sicuro e tranquillo rispetto al mondo, guarda, tu non puoi stare in questo paese, quindi con i tuoi mezzi, no, prenditi un aereo, una nave, un treno, vattene fuori da questo paese. Sei espulso, ma sei tu che ti devi autoespellere, sei tu che te ne devi andare. È ovvio che non siamo in una situazione in cui, diciamo, i funzionari italiani sono così dementi da credere veramente che queste persone se ne andranno. È ovvio, cioè, siamo di fronte comunque a funzionari molto intelligenti, così intelligenti che dicono appunto tu non hai una lira in tasca, però con i tuoi soldi che non hai comprati un biglietto d'aereo e vattene. Se non te ne vai per 10 anni, se io ti prendo, caro mio, saranno, diciamo, sarà dura per te, perché ti ficherò in un carcere, perché ti punirò penalmente, perché poi potrebbero aggravarsi le tue situazioni, invece se te ne vai tutto è tranquillo. L'obiettivo è ovvio, non è quello di farlo andare via, l'obiettivo è che questa persona schedata e quindi nullificata sul piano del diritto per 10 anni, resti in Italia e costruisca esattamente quella sottoclasse di lavoratori che costruisce oggi in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Belgio, in tutti i paesi europei, il livello più alto di valorizzazione del capitale che sia possibile immaginare. Un livello di valorizzazione assoluto, dove il lavoratore, non potendo disporre di alcun diritto e non potendosi avvalere di alcun diritto, si qualifica esattamente come una sottoclasse senza diritti e dunque qualifica lo Stato italiano come uno Stato che non è più uno Stato di diritto, ma è uno Stato a diritto stratificato. Siamo passati quindi in una nuova fase, che è la fase della società globale, in cui, guarda un po', l'escluso diventa un business, l'escluso diventa un affare. Produrre esclusione diventa condizione per la valorizzazione massima del capitale. E quando dico questo, allora lo dico perché dal 2002 lavoro a Milano nelle aziende della grande distribuzione, quindi Esselunga, Auchan, Carrefour, eccetera, e noi troviamo migliaia e migliaia di questi lavoratori di cui io vi ho parlato, lavoratori dannati, cioè che non hanno possibilità di... li troviamo tutti i giorni a quest'ora, cioè a lavorare per queste aziende. Dove lavorano? Negli appalti. Queste aziende ormai sono aziende che hanno messo in appalto servizi, pulizie, etichettatura, montaggio dei camion, scarico dei camion, rifornimento dei banconi, cioè tutte quelle cose che a quest'ora, mentre noi siamo qui che chiacchieriamo, per esempio fanno il magazzino di Limito. Se voi prendeste un taxi in questo momento e velocemente vi recaste, ma neanche velocemente perché c'è tutta la notte davanti, a Limito, voi di questi lavoratori senza diritti ne trovate migliaia, che sono tranquillamente inquadrati in cooperative grigie, che sono cooperative che mettono al lavoro questa gente come soci, senza però metterla minimamente in regola a nessun livello, aziende senza nome, che esistono semplicemente a tempo determinato per svolgere, ci sono aziende che durano un giorno in questo tipo di operazioni, e le trovate, diciamo così, a fondamento di Auchan, Carrefour, Esselunga, Hypercop e di tutte queste belle aziende. Ora, di tutto ciò, noi da tutto ciò tiriamo quindi una precisa indicazione. I rifiuti sono un business che viene affidato alla mafia, no? Si dice alle mafie, viene affidato cioè ad aziende che utilizzano i rifiuti, no? Per fare una serie di traffici economici. I rifiuti umani vengono affidati ad altri tipi di strutture per fare un altro tipo di traffici. Noi cosa centriamo con tutta questa situazione? Centriamo perché noi in questa situazione siamo in un punto preciso, siamo il punto che questo modello chiama il punto del consumatore, vale a dire il punto di una persona che ha diritti solo se consuma, cioè se li compera. Noi oggi siamo in grado di comperare, no? In modo differenziato di questa società, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto a far carriera, per esempio, solamente i figli di coloro che possono permettersi di mandarli, no? In certi tipi di università potranno fare certi percorsi. Questo ormai è chiaro, cioè, voglio dire, solamente le persone che hanno molto denaro potranno permettersi una dentatura adeguata e potranno permettersi, di non avere una serie di malattie conseguenti. Ci vogliono soldi per la salute, per l'istruzione, per la sicurezza. Allora, la sicurezza, e arrivo al punto della domanda da cui tu sei partito, oggi è una truffa che si regge intorno all'idea di diritto negato. C'è sicurezza in un paese laddove tutti i cittadini hanno, dei diritti chiari, trasparenti, non opachi, chiari e trasparenti. Laddove non ci sono diritti chiari e trasparenti, come in Italia, no? Allora c'è un'altra cosa, c'è il consumo, ci sono i soldi, c'è la necessità di comprare ciò di cui uno ha bisogno, e più soldi uno ha e più ne compra. Tant'è che in questo paese si può comprare tutto, si possono comprare le televisioni, si può comprare la democrazia, si può comprare il Parlamento, si può comprare un consiglio regionale e comunale, si può comprare qualunque cosa, anche un dentifricio da qualche parte, se uno ha i soldi per andarlo a comprare. Siamo allora dentro un'idea in cui noi, per porre il problema dell'inclusione e dell'esclusione, dobbiamo stare attenti, perché la domanda è più importante essere inclusi in questo tipo di sistema, cioè come buoni consumatori, no? O la coppia inclusione-esclusione è una coppia falsa di cui dobbiamo sbarazzarci, perché la vera, diciamo, dimensione di problema che noi abbiamo di fronte è la dimensione della trasparenza dei sistemi di potere, dei legami e oppure dell'opacità. E arrivo al punto finale di questo ragionamento: il problema del legame frantumato di cui tu parlavi è il problema centrale dell'esistenza umana sulla terra. Laddove non c'è legame, no, c'è semplicemente non c'è più cittadinanza, non c'è più non solo comunità, che una volta ci poteva essere la comunità, come dire, di territorio, la comunità di cortile. Siamo cresciuti in valli, siamo cresciuti in montagne, in zone marine, ma comunque dove c'è ancora il nonno, la zia. Oggi tutto ciò non ha più senso. Oggi noi siamo stranieri al territorio in cui siamo, e lo siamo per una ragione che vi sarà immediatamente evidente solo andando a fare la spesa. Chi di voi sa ancora dire qual è la storia sociale dei prodotti che utilizza? Guardatevi semplicemente in tasca in questo momento. Molti di voi hanno un telefonino. Ebbene, intorno ai telefonini, chi di voi sa che ci sono 1.700.000 morti? 1.700.000 morti per cifre dell'ONU, non dette da Renato Curcio. L'ONU, il sito dell'ONU, dice il coltan, che è fondamento di tutte delle grandi aziende dei telefonini, no? Raccolto nel Congo, è gestito da tre aziende, che sono una tedesca, un'americana e una russa, che armano tre eserciti, che sono quello ruandese, quello del Congo democratico, eccetera, che armano tre eserciti per poter gestire, diciamo, lo sfruttamento di questo materiale che lì è il, diciamo così, che c'è solo lì in termini economici per la sua estrazione. Ebbene, queste guerre durano da anni, ce le vendono in mille modi, e sono guerre per il coltan, vale a dire per i telefonini che noi abbiamo in tasca come consumatori. Ce le siamo comprati e ce le continuiamo a comprare, casomai li regaliamo a Natale. Ogni telefonino può essere 4, 5, 6, 7 altri morti. Non faccio un discorso morale, non vi sto dicendo che non dovete avere il telefonino, sia ben chiaro. Dico solo che la storia sociale dei prodotti che noi abbiamo ci rende stranieri. Tu hai un telefonino, ma chi ha fatto i circuiti della notte? Li ha fatti un indonesiano, li ha fatti un thailandese, un vietnamita, e il coltan viene dal Congo. E tu che ne sai di tutto questo assemblaggio che ti rende ai prodotti totalmente stranieri? La nozione di straniero e la nozione di legame è questa. E oggi non possiamo più dire a nessuno su questo territorio che è più o meno straniero di noi, perché ciò che decide il territorio non sono più i confini geografici e le idee, le mappe culturali che abbiamo alla testa, ormai vecchie, ma è il movimento del nuovo modello di sviluppo planetario, e cioè delle grandi aziende che ho citato all'inizio. Detto questo, se volete, possiamo iniziare invece un confronto sugli aspetti più particolari.